Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12:12, l'appuntamento con Salva Danaio e oggi il secondo appuntamento con la riforma del condominio che partirà il 18 di giugno, quindi tra pochissimi giorni, ed è necessario sapere come cambieranno alcune regole fondamentali di convivenza all'interno dei nostri condomini. Oggi in particolare ci focalizziamo sulle maggioranze in assemblea e sul nuovo bilancio. Cercheremo di capire un po' come si modificano proprio sotto questi due punti di vista le nostre abitudini all'interno del condominio, perché soprattutto relativamente alle maggioranze in assemblea ci sono molte cose da sapere. L'elenco è lunghissimo, non ci spaventiamo perché come al solito saremo aiutati da alcuni illustri ospiti che ci aiuteranno a fugare qualsiasi tipo di dubbio e di domanda. 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Prima però di capire come si modificano le regole, le norme relative al condominio, andiamo a dare una rapida occhiata su quanto sta accadendo sui mercati. La giornata è partita in salita per il vecchio continente, perché in salita si è chiusa la giornata per i mercati asiatici, in particolare per Tokyo, dove il Nikkei ha chiuso con una flessione pesantissima, meno 6,35% nella seduta di oggi, dovuto soprattutto al rafforzamento dello yen, quindi la divisa giapponese, sul dollaro e soprattutto ai timori per gli investitori che la Fed chiuda i cordoni della borsa e quindi rimetta mano alla sua politica monetaria, che fino a questo momento è stata molto espansiva, e che quindi anche la Bank of Japan in qualche modo prenda atto di queste eventuali misure da parte della Fed. Come dicevamo, la giornata si è aperta in salita per il vecchio continente con tutti i segni meno, poi i listini hanno cercato in qualche modo di ritracciare. C'è stata una continua tensione e comunque molta volatilità. Parigi in questo momento cede uno 0,78%, la più pesante è Francoforte che cede l'1,61%, soprattutto dovuto al comparto industriale che questa mattina fatica moltissimo. Anche Londra cede l'1,13%. In questo momento Piazza Affari recupera moltissimo, la flessione del FTSE MIB è dello 0,13%. Questo miglioramento si è innescato soprattutto dopo l'asta dei titoli di Stato, BTP triennali e BTP a 15 anni, importo assegnato che ha sfiorato il massimo offerto per quel che riguarda i BTP triennali, 15 anni sono stati tutti assegnati. In rialzo il rendimento per quel che riguarda i BTP triennali al 2,38%. Come dicevamo, FTSE MIB è il migliore, meno 0,14%. Sul listino principale il titolo migliore resta la Popolare di Milano, che guadagna il 3,5%, seguito dal Banco Popolare più 2,89%, Parmalat alla vigilia dell'Assemblea guadagna il 2,68%, Monte dei Paschi guadagna l'1,74%, aveva aperto invece come peggior titolo questa mattina, poi era stato sospeso e poi riammesso alle contrattazioni. In fondo al listino ritroviamo Buzzi Unicem che cede quasi 4 punti percentuali, Ferragamo meno 3,28%, Azimut meno 2,24%, Atlantia cede l'1,99%. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,33,31 sul dollaro, mentre per quanto riguarda il differenziale tra BTP e Bund siamo scesi sotto quota 280 poco prima dell'asta dei titoli, adesso siamo a 286 punti base. Per il pomeriggio c'è attesa per il dato in arrivo dagli Stati Uniti relativo alle vendite al dettaglio e poi saranno diffusi anche i sussidi, le richieste per i sussidi alla disoccupazione, che sono sempre un indicatore in arrivo dagli Stati Uniti. Chiusa la parentesi relativa ai mercati che questa mattina ci hanno dato qualche pensiero, vado a presentarvi gli ospiti che sono collegati con noi telefonicamente. Saluto intanto il collega del Sole 24 Ore, Saverio Fossati. Buongiorno Saverio. Buongiorno a tutti. E saluto anche l'avvocato Massimo Ginesi. Buongiorno, avvocato del Centro Studi Nazionale della ANACI. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Siamo in attesa di collegarci telefonicamente anche con il dottor Giuseppe Merello, che è tesoriere nazionale della ANACI. La ANACI ci aiuta e ci supporta in queste puntate dedicate ovviamente alla riforma del condominio. 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri SMS. Ora la nostra scheda. Manca meno di una settimana all'entrata in vigore della nuova riforma del condominio, che cambierà le regole da seguire nelle case degli italiani e in particolar modo nelle famigerate assemblee. Una novità rilevante tra le tante che sono in arrivo è l'introduzione di un quorum costitutivo nelle assemblee condominiali che fino ad oggi non era previsto. Perché un'assemblea di condominio sia valida, dal 18 giugno sarà necessaria in seconda convocazione, cioè la convocazione che conta, la presenza di un terzo dei condomini, che in totale dovranno anche detenere un terzo dei millesimi dell'edificio. Per approvare decisioni ordinarie relative a opere o servizi che riguardano la normale amministrazione del condominio, servirà la maggioranza degli intervenuti in assemblea, a patto che queste persone siano titolari di almeno un terzo dei millesimi. Con le nuove regole risulterà quindi più facile approvare una decisione a maggioranza in quei condomini in cui pochi proprietari dispongono di una quota ampia in termini di valore. Il discorso è diverso per delibere che non rientrano nell'ordinaria amministrazione, come ad esempio la revoca dell'amministratore, le riparazioni straordinarie o l'approvazione del regolamento di condominio. In questi casi servirà il cosiddetto quorum regolamentare, che consiste nella maggioranza degli intervenuti in assemblea più la metà del valore del condominio. E allora saluto anche il dottor Giuseppe Merello, che ci ha raggiunto telefonicamente. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, mi scuseranno i due ospiti esponenti della ANACI se comincio dal collega Saverio Fossati, perché dopo la scheda, come dire, Saverio, bisogna andare con un elenco alla mano per capire come si può e come si deve operare tra queste su queste maggioranze, per quali decisioni prendere. Insomma, la vicenda è un po' complicata. Ma sì, ma era complicata anche prima. Naturalmente, quando si va in assemblea condominiale c'è sempre una casistica abbastanza vasta di decisioni, e a ogni decisione corrisponde una tipologia di maggioranza. Già è complicata di per sé l'assemblea di condominio, diciamolo. Sì, l'assemblea di condominio è il luogo in cui, diciamo, la realtà viene inquadrata negli ambiti molto astratti, nei perimetri molto astratti della legge. Forse è l'unica volta nella nostra vita in cui noi abbiamo a che fare direttamente con una cosa che decidiamo in base alla legge, quasi fossimo un piccolo parlamento, no? Sì, ecco, allora, certo. Non bisogna però aver paura, nel senso che le maggioranze non sono di mille tipi. Di mille tipi sono i casi, però poi le maggioranze sono di 4 o 5 tipi più o meno. Siccome noi abbiamo pubblicato, tra l'altro, anche quando è uscito il 29 maggio, abbiamo pubblicato una bella tabellona. E io ce l'ho sotto gli occhi questa bella tabella, Saverio. Non è così terribile, cioè, come si vede, guardando, diciamo, intanto consideriamo che quando si va in assemblea si va sempre in seconda convocazione, cioè io non ho mai sentito una volta nella vita che si arrivi già pronti alla prima convocazione. Quindi ragioniamo concretamente sulla seconda convocazione. Sulla seconda convocazione i tipi di maggioranza non sono moltissimi. Nella grandissima maggioranza dei casi basta avere tante persone che siano la maggioranza di quelli che sono arrivati in assemblea come teste, come persone fisiche, e che rappresentino almeno un terzo dei millesimi totali come maggioranza dei presenti in assemblea. Ecco, già lì il 60% dei casi viene più o meno risolto da questo. In alcuni rari casi ci vuole l'unanimità, ma è inutile neanche che ne stiamo a parlare, perché tanto non si verifica e non si verificherà mai l'unanimità in un'assemblea del condominio. Infatti. È il caso classico di quando si vuole, per esempio, vendere una parte comune, no? Il famoso gabbiotto appartamentino del custode, lo si vorrebbe vendere, non ce la farete mai, non ce la faremo mai. Nel corso della discussione sulla riforma era stata prevista questa possibilità in modo un po' contorto, poi però c'è stata una levata di scudi e questa possibilità è stata completamente eliminata, sostituita con un'altra cosa che è forse l'unica vera novità, una delle maggiori novità in tema di maggioranze dal 18 giugno in poi, e cioè questa famosa questione della modifica delle destinazioni d'uso delle parti comuni. Prima le destinazioni d'uso delle parti comuni praticamente non era neanche prevista nel codice civile, ecco questa cosa della modifica delle destinazioni d'uso. Ora è prevista e ci vuole questa maggioranza molto particolare dei 4/5 dei condomini e dei millesimi, indipendentemente da quelli che sono presenti in assemblea. Ecco, e quindi ci vuole questa maggioranza molto forte, anche questa molto difficile da raggiungere. Vuol dire per esempio che si possono destinare alcuni locali di uso comune, no? Che per destinazione avevano un certo scopo, adesso gli si può cambiare scopo, per esempio il classico locale caldaia laddove sono stati messi gli impianti autonomi, magari lì da decenni inutilizzato, può essere utilizzato, adesso finalmente può essere utilizzato in altro modo. Oppure si può utilizzare, credo, ma poi l'avvocato Ginesi queste cose le sa molto meglio di me, gli spazi esterni al condominio, no? Che sono per destinazione d'uso, che so, un giardino, ecco, li si può destinare magari a qualche altra cosa un pochino meno statica, non so, parco giochi, oppure piscina o roba del genere. È una modifica importante, però nella maggior parte degli edifici urbani poi trovo un'applicazione nel concreto relativa. Forse le modifiche più rilevanti sono state quelle delle cosiddette innovazioni agevolate, cioè le innovazioni sono quando si innova una parte comune o un impianto, no? lo si innova proprio nel senso di cambiarne i connotati, le caratteristiche. Ecco, e l'esempio più evidente poi è quello energetico. Sì, risparmio energetico, certo. Barriere architettoniche. Ecco, mentre prima per queste situazioni erano previste delle maggioranze agevolate in un certo senso, genericamente agevolate, adesso si tende un po' a inquadrarle nell'ambito delle innovazioni e certo se le vecchie innovazioni richiedevano una maggioranza molto ampia, difficile da raggiungere, adesso invece basta che ci sia almeno metà dei millesimi e metà degli intervenuti in assemblea. È anche vero però che per esempio per il risparmio energetico la maggioranza richiesta era decisamente minore, quindi che cosa vuol dire? Che la legge ha portato un peggioramento in un certo senso delle maggioranze necessarie per esempio per l'eliminazione delle barriere architettoniche o per gli interventi di risparmio energetico, qualificandole come innovazioni in gran parte. Il problema è cercare di capire quando queste opere che uno intende eseguire sono veramente delle innovazioni, e allora non c'è scampo, bisognerà usare quelle maggioranze più pesanti. Quando invece non sono innovazioni, oppure nel caso del risparmio energetico, quando si presenti almeno la diagnosi energetica delle opere che si intendono presentare, allora si possono usare le maggioranze, quelle meno impegnative, e questa è sicuramente una possibilità su cui tutti un po' si stanno orientando. Tra l'altro è una piccola confusione che ha creato la legge, perché è intervenuta sia sulla legge speciale che stabiliva maggioranze diciamo accessibili per il risparmio energetico, sia inventandosi questa cosa delle innovazioni per il risparmio energetico. E beh, come sempre, insomma, ci si mette anche il legislatore a non rendere proprio semplicissima la convivenza all'interno del condominio. Diamo subito spazio agli ascoltatori, perché come sempre quando si tratta di condominio, così come pochi altri temi, riesce a suscitare l'interesse di chi ci ascolta. Vittoria dalla provincia di Milano, buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno, ringrazio per darmi la parola. Professore, si tratta di questo. Ho appena vinto una causa, un arbitrato nello specifico, contro 15 condomini, 18 erano favorevoli, 15 contrari, sono proprietaria di un bed and breakfast. Sì. Quindi il bed and breakfast va avanti tranquillamente. Sì. Adesso si tratta di mettere fuori dalla porta, dal palazzo, una targa identificativa di questo bed and breakfast. E voglio sapere se devo passare attraverso l'assemblea, oppure lo posso fare, visto che il Comune di Milano mi ha anche dato le misure ben precise con la stella della rosa comuna, eccetera, eccetera. Allora, signora Vittoria, io girerei la sua domanda all'avvocato Ginesi per capire un po' se la signora, per mettere questa targa sul portone, deve nuovamente passare dall'assemblea oppure può farlo autonomamente, visto che ha già ottenuto i permessi da parte del comune. Sì, buongiorno, ma direi che ovviamente la risposta è generica e generale, sì, perché poi si tratta di vedere nel caso specifico, sì, certo, che dimensioni abbia questa targa, che caratteristiche, se sia una targa o un'insegna, se incida in qualche misura sull'estetica del fabbricato, certo, o sull'utilizzo della facciata, però tendenzialmente se si tratta semplicemente di una targa di dimensioni ridotte è una facoltà che compete al singolo condomino ai sensi del 1102, che è una norma sulla comunione che è richiamata dal 1139 come norma di chiusura delle, sì, norme sul condominio e che consente al singolo di utilizzare il bene comune senza necessità di alcun consenso degli altri condomini, i quali semmai poi potranno attivarsi ove la ritengano lesiva per farla levare, però non necessita una preventiva autorizzazione, sempre che il regolamento condominiale, se ha natura contrattuale, certo, non impedisca questo tipo di attività. Certo, quindi nel caso specifico, come spesso accade, è bene poi andarsi a leggere quanto è scritto nel regolamento del condominio, ovviamente. Le 12.33 minuti, stiamo parlando della riforma del condominio che, vi ricordo, entrerà in vigore il prossimo 18 giugno. 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms. La linea Rosanna dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io volevo chiedere se poteva essere impugnata per nullità o annullabilità una delibera per la quale credo di riscontrare un vizio di costituzione. Nello specifico, il presidente ha ammesso la presenza di un terzo estraneo all'assemblea, sì, mettendone alla porta un altro terzo estraneo. Uno era un avvocato e si è presentato come legale di un condomino, col condomino presente. Sì. L'altro era il collaboratore di un altro condomino. Allora, so che il garante si è espresso in materia e che probabilmente presenze di terzi estranei dovevano essere messe ai voti e accettate all'unanimità. Grazie. Grazie a lei, signora Rosanna. Tra l'altro io con particolare piacere giro questa sua domanda al dottor Merello, perché sono arrivati anche degli sms a proposito di estranei, terzi estranei presenti in assemblea. Sì, direi che è innanzitutto una questione di educazione e cortesia, se mi posso, certo, permettere. Certo, assolutamente, assolutamente. Ecco. Sì. Quindi ritengo che il condomino poi sia sempre autorizzato a portare un proprio consulente, come mi sembra di capire nella fattispecie. Sì, certo, però chiaro, poi dipenderà un po' dalle fattispecie, da quello che sono le argomentazioni in discussione e quant'altro. Sul vizio di costituzione, sì, oppure no, dell'assemblea, su questo mi sembra difficile potersi esprimere in tal senso, ecco, nel senso che non penso che possa esserci un vizio di questo tipo. Chiedo comunque il supporto dell'avvocato Ginesi, che ecco, sulla materia è sicuramente più preparato. Ecco. Avvocato Ginesi, che ci può dire? Ma la presenza dei consulenti in assemblea è materia spesso discussa, sì, in realtà è vero, non possono essere presenti se non vi è il consenso dei partecipanti, certo. Tant'è vero che spessissimo si usa la consuetudine di dare la delega direttamente al professionista che partecipa in rappresentanza del condomino, sì, il condomino avrà diritto di essere presente senza parlare, che però poi la presenza si rifletta su un vizio di costituzione, riterrei che... Abbiamo qualche difficoltà con la linea dell'avvocato Ginesi, cercheremo di ripristinare il collegamento. E allora io do invece la parola al signor Fernando dalla provincia di Viterbo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ci dica. Cortesia, ecco, io vorrei avere un chiarimento a proposito delle violazioni continue ai regolamenti condominiali per quanto, sì, riguarda il divieto di parcheggiare macchine negli androni dei garage. C'è l'articolo 70 delle disposizioni dell'attuazione, sì, del codice, prevede che possano essere stabilite delle sanzioni. Sì. Ecco, come si può fare e come poi ci si comporta. Mm. Allora, io cercherei di allargare un pochino questa sua domanda, signor Fernando, e chiedo l'aiuto a questo punto del collega Saverio Fossati, perché anche in merito alle violazioni dei regolamenti condominiali sono state apportate delle modifiche. Sì, direi fondamentale, perché fino al 18 al 17 di giugno la sanzione prevista è di lire 100, e cioè circa 5 centesimi di euro, e quindi evidentemente è una sanzione del tutto inutile, inapplicabile. Diciamo, infatti. Adesso invece, dal 18 di giugno in poi, la sanzione è stabilita nell'importo da fino a euro 100 e, in caso di recidiva, fino a euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. Questa sanzione può essere stabilita. Può essere stabilita, la legge nuova non dice chi la stabilisce. Ecco. Questo è un po' un problema, perché è chiaro che chi cura l'attuazione del regolamento e l'osservanza e il suo rispetto è l'amministratore, ecco. Quindi idealmente dovrebbe essere lui a irrogare la sanzione da 100 a 800 euro. Sì. È evidente che nessun amministratore sano di mente sognerà di irrogare una sanzione superiore a 100 euro per non essere accusato di avercela con quel particolare condomino. Perciò sarebbe molto utile se un'assemblea condominiale stabilisse, per esempio, le modalità di irrogazione della sanzione. Per esempio, potrebbe stabilire che la sanzione è di euro 100 per ogni violazione e, in caso di recidiva, è fino a euro 800. Sì. Ecco. Oppure la sanzione di euro 20 o 50 in caso di recidiva fino a euro 100. Perché effettivamente il problema è che la sanzione è fino a 100 euro, non da 100 euro, sì. E quindi c'è comunque un ampio margine di discrezionalità. Noi infatti il Sole 24 Ore si è fatto promotore di un disegno di legge di modifica, preventiva, della riforma, che stabilisce, che inserisce nella legge queste semplicissime parole: l'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui il quarto comma dell'articolo 1136. Cioè, cosa vuol dire? Che ogni volta che c'è da irrogare una sanzione l'assemblea si riunisce. È un po' macchinoso. Però la soluzione potrebbe essere anche più semplice: se l'assemblea determinasse con una sua delibera un piccolo meccanismo automatico delle sanzioni, probabilmente l'amministratore che vi si attiene sarebbe a questo punto molto agevolato nel suo assolutamente lavoro. Non so se l'avvocato Ginesi ritiene che una delibera, e con quali maggioranza vada assunta questa delibera fatta così, possa essere un po' risolutiva della questione. Allora, io intanto ovviamente richiamo l'avvocato Ginesi anche su questa parte della tua domanda, Saverio, ma gli chiederei di concludere il pensiero precedente, quindi relativo agli estranei in assemblea e all'eventuale annullamento, annullabilità dell'assemblea stessa o delle decisioni prese in assemblea. Ritengo che dove l'assemblea abbia deliberato con le maggioranze previste o si sia regolarmente costituita con le maggioranze previste, la presenza di un estraneo non dia luogo a nessun vizio che affligge la delibera. Semmai si tratterà di vedere se dia luogo a responsabilità in capo al presidente nell'aver gestito, però ecco, peraltro i parametri della nullità sono stati definiti dalla Cassazione ormai da tempo in maniera netta e direi che non vi rientra questa ipotesi. Quanto alla sanzione, concordo sostanzialmente con quello che dice il dottor Fossati, che saluto. Credo che la delibera possa essere utile, anche perché sennò rischiamo di gravare l'amministratore di responsabilità pesanti. In realtà però il termine sanzione e irrogazione rischiano di essere fuorvianti, perché ci riportano i poteri impositivi della pubblica amministrazione che all'interno del condominio non sussistono, per cui alla fine, anche se lo decide l'assemblea quale sia la modalità, anche se l'amministratore la irroga, se poi il condominio non la paga, sempre una causa civile bisognerà fare per far accertare sia la violazione che la sanzione che è dovuta. Quindi alla fine rientriamo in rapporti fra privati che non hanno alcun potere impositivo fra di loro. Una norma molto di impatto emotivo, ma a mio avviso di scarsa rilevanza pratica. Allora, Stefano dalla provincia di Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Ci dica. Allora, io vorrei chiedere un'informazione. L'area edificabile di un condominio è soltanto l'area dove ci sono i muri maestri, oppure tutta la recinzione del muro che delimita anche i giardini privati. Prima domanda. Sì. E una seconda domanda, dato che il nostro regolamento contrattuale per quanto riguarda la ripulitura delle scale fa riferimento alla tabella A, la tabella A praticamente è quella di proprietà, quanto dovrebbe esistere la tabella come quella dell'ascensore a porzione di piano. L'assemblea con 500 più 1 dei presenti può modificare questa tabella? Allora, la sua doppia domanda, io personalmente, essendo non pratica di questo argomento, la trovo un po' complicata e quindi la giro all'avvocato Ginesi. Entrambe le domande, quindi l'area edificabile, in che cosa bisogna considerarla, cioè quali sono i parametri per considerarla, e poi ciò che riguarda invece il contratto di pulitura delle scale, che si rifà a questa tabella A, che è una tabella sbagliata. Ma partiamo dalla seconda, che mi sembra chiara. Sulla prima poi cerchiamo di capire che cosa chiede l'ascoltatore. Sulla seconda direi che i criteri di ripartizione delle spese sono derogabili. Quelle delle scale dettate dal 1124, la tabella relativa di solito è predisposta secondo quel criterio, cioè metà in base al valore proporzionale, metà in base all'altezza. La riforma introduce l'avverbio esclusivamente in base all'altezza, quindi questo probabilmente modificherà un po' l'interpretazione della norma, ma al di là di questo, se il regolamento contrattuale adotta una tabella diversa, per modificare quel criterio che diventa convenzionale ci vuole comunque una convenzione e il consenso di tutti i condomini. Se invece si riesce a dimostrare che quello è un errore nell'adozione dei parametri, si potrebbe modificare la tabella con la maggioranza prevista secondo me al 1136. Sul primo non ho compreso cosa si intenda per area edificabile, perché all'interno del condominio ha poco significato l'espressione. Allora, non abbiamo più l'ascoltatore. Ah, ecco, allora prego l'ascoltatore di specificare meglio qual è la prima parte della sua richiesta. Ipotesi. Il costruttore ha 5.000 metri quadrati di terreno. Sì. Su questi 5.000 metri, dico un numero X, si può costruire una copertura di 2.000 metri quadri. Gli altri 3.000 metri quadri, con un muro perimetrale che praticamente delimita il condominio, i piani terra potrebbero avere dei giardini personali. No. Quindi però l'area edificabile, cosa si intende? Là dove sorge il palazzo o anche tutta l'area? È sbagliato. Da 5.000 a costruire. Allora, aspetti che l'avvocato ci può aiutare in questo. Ma direi che non si può dare una risposta così al buio. La circolazione dei beni immobili è stabilita per atto scritto. Bisogna vedere il titolo con il quale i singoli hanno acquistato, in forza del quale si è costituito il condominio, che cosa prevede in ordine alle aree esterne. Certo. Non c'è un principio generale. Bisognerebbe leggere il contratto. Allora, Mirko dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Ascolti, io volevo sapere un'informazione. Noi praticamente abbiamo fatto una raccolta firme nel condominio perché abbiamo cambiato l'amministratore da circa un anno e mezzo, no? Sì. E col vecchio amministratore praticamente noi abbiamo tutto il bollettario, il fatturato, robe varie, però non riusciamo a vedere gli estratti, i conti bancari del primo periodo del mandato di questo pseudo amministratore. Sì, quindi sostanzialmente a voi mancano dei documenti. Sì, esatto. E poi un'ultima domanda: siccome tra il passaggio tra un amministratore e l'altro io ho subito un'ingiunzione di pagamento per delle rate arretrate, no? Sì. Che comunque ho saldato tutto quanto. Sì. Però a me nel bilancio mi viene comunque contestato praticamente queste spese legali, che io ho già pagato tutto, ho sentito persino l'avvocato, era a posto. Allora, signor Mirko, io le chiedo di avere un po' di pazienza, perché adesso dobbiamo dare la linea alla viabilità, ma subito dopo cercheremo di darle delle risposte. Le 12:47 minuti, 43 secondi, allora io chiamerei in causa il dottor Merello. Il signor Mirko ci ha detto che c'è stato un cambio di amministratore, però mancano dei documenti. Come fare a recuperare i documenti che mancano dall'amministratore che è stato mandato via? C'è un modo? Ammesso che ci sia il modo. Il passaggio di consegna è spesso un problema veramente delicato, infatti. dipende chiaramente dalla professionalità e dalla collaborazione dei professionisti. E certo. Sicuramente per chi subentra è importante fare tutti gli atti necessari per poter dimostrare che effettivamente è stato fatto quanto era in suo potere per acquisire la documentazione. Non è che poi ha mali, estremi mali, estremi rimedi, quindi fino ad arrivare a un atto provvedimento d'urgenza come 700 e viene a chiedere tramite l'autorità giudiziaria che venga messa a disposizione questa documentazione. Sempre poi, difficile in questi casi, soprattutto quando poi l'amministratore viene mandato via, è ovvio che resta un po' di ruggine e potrebbe far sì che insomma l'amministratore uscente non sia poi così collaborativo. Invece la seconda parte della domanda la volevo girare all'avvocato Ginesi, anche perché ci sono stati molti ascoltatori che ci hanno chiesto come fare nei confronti di quei condomini che non pagano. Il signor Mirko ha detto che lui ovviamente ha pagato e ha saldato tutto, però questo saldo non risulta e quindi si chiedeva come poter fare. Però ci sono anche tanti sms che ci sono arrivati anche la scorsa settimana che chiedevano come fare nei confronti dei condomini che non pagano. Beh, come fare nei confronti dei condomini che non pagano, già prima della riforma sì. Ce lo diceva l'articolo 63 delle disposizioni dell'attuazione, l'amministratore sulla base dello stato di ripartizione approvato può richiedere decreto ingiuntivo. Oggi il 63 è stato modificato introducendo una responsabilità sussidiaria dei condomini che hanno pagato, ove il soggetto che è debitore non sia poi solvente all'esito di questa esecuzione. Quindi semplicemente si fa un decreto ingiuntivo e si procede esecutivamente nei confronti del moroso. Per quel che riguarda il signor Mirko, che invece dopo il decreto ha pagato... Se ha pagato l'intero decreto, avrà modo di dimostrarlo. Mm. Si tratta di vedere se nel consuntivo può essere che per sole ragioni contabili siano state indicate le somme che sono comunque transitate sul conto del condominio come spese legali. Si tratta di vedere se gliele imputano semplicemente come posta contabile o se gliele chiedono due volte. Questo lo dovrà verificare il rendiconto. Certo. Do la linea al signor Livio dalla provincia di Pavia. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Volevo porre questo quesito. La trasformazione di un'abitazione A4 in studio professionale comporta una delibera in tal senso da parte dell'assemblea, trattandosi di un sovraccarico delle strutture condominiali o meno? Allora, e con quali millesimi? Allora, Saverio, ci puoi aiutare tu a rispondere al signor Livio? Sì, il problema è più che dell'assemblea e va cercato nel regolamento condominiale. Cioè, se nel regolamento condominiale non ci sono divieti alla nascita di studi, installazione di studi professionali all'interno del condominio, l'aspetto, diciamo così, puramente catastale non è rilevante per il condominio, nel senso che se quella A4 dovrà diventare un A10, cioè catastalmente un ufficio, questo è un problema che riguarda il proprietario, certo, e non il condominio. Il proprietario deve andare al catasto e chiedere il cambio di destinazione della sua unità immobiliare. Però nel regolamento nulla è previsto al riguardo, cioè non si dice, non c'è un divieto per uno studio professionale, ovviamente non c'è nessun problema. Normalmente qualche cosa c'è, specialmente se si tratta di attività che implicano un grande passaggio di pubblico oppure abbiano a che fare con attività sanitarie o rumorose. Sì. Molto spesso questo è previsto e questo già blocca di per sé l'iniziativa. Ma che in astratto ci sia scritto non è ammesso l'esercizio di attività professionali o lavorative all'interno delle unità immobiliari abitative, mi sembra difficile, però senza regolamento di condominio è impossibile sapere, non serve un regolamento, e comunque se ci fosse, allora in ogni caso non servirebbe a granché il permesso, diciamo così, dell'assemblea, perché se nel regolamento di condominio, il regolamento di condominio è come una specie di costituzione rispetto alle leggine che possiamo fare ogni giorno in assemblea. Ho idea che a volte lo sottovalutiamo questo regolamento di condominio. Sì. Ecco, allora Maurizio dalla provincia di Firenze, buongiorno, le chiedo di essere molto breve. Sì, buongiorno. Ci dica. Volevo sapere se secondo l'articolo 1129 l'obbligatorietà dell'amministratore è per condomini superiori a 8. Allora, questa domanda avevamo, se non ricordo male, già risposto la scorsa settimana, ma comunque io la giro ancora al dottor Merello. Quindi con un condominio di 8 condomini, che succede? O superiore a 8 condomini? Fino a 8 condomini non è obbligatorio l'amministratore, quindi un condominio con più di 8 condomini ha necessità dell'amministratore. È un limite che è stato incrementato con la riforma del primo re, sì. Era 5, adesso è aumentato ad 8 in maniera anche, se diciamo, un po' incomprensibile come norma, perché comunque un condominio con 8 condomini già può rappresentare un'entità di un certo livello, di una certa complessità, con una certa complessità, con certi adempimenti che comunque ricadono sul condominio indipendentemente dal fatto che ci sia o no l'amministratore. Comunque sicuramente l'obbligatorietà dell'amministratore avviene dagli 8 in più. Poi è a discrezione dell'assemblea dotarsi di un amministratore anche nel caso di condomini con un numero inferiore di condomini. Allora, io mi scuso con il signor Massimiliano dalla provincia di Alessandria, perché comunque introdurrebbe un tema molto ampio, perché ci chiede che cosa fare per staccarsi dal riscaldamento centralizzato. Questo lo analizzeremo in un'altra puntata di Salvadanaio dedicata al condominio, e sicuramente avremo tempo per riproporre questa domanda del signor Massimiliano. Il tempo a nostra disposizione sta via via terminando, e allora io saluto e ringrazio il dottor Giuseppe Merello, tesoriere nazionale dell'ANACI, per essere stato con noi, l'avvocato Massimo Ginesi del Centro Studi Nazionale dell'ANACI, ringrazio e saluto il collega del Sole 24 Ore Saverio Fossati, un ringraziamento in redazione a Valentina Magri, in regia a Paolo Corleoni, a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Salvadanaio.